fuiste yo. Y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ho pensato a lungo prima di fare il programma che farò oggi, ma alla fine ho deciso di non porre limiti alla mia curiosità e soprattutto alla possibilità di verificare alcune mie curiosità con il pubblico della radio, che è il grande indicatore dell'attualità che ho a disposizione. Sì, perché il problema monto, perlomeno la difficoltà nell'affrontare questo argomento, deriva dal fatto che esiste una sorta di pregiudizio che potrebbe essere alimentato da quello che io dirò questa mattina. Quindi la premessa è necessaria per dire che oggi non voglio toccare rispetto a questo argomento, che adesso vi annuncerò, ma vi do un po' di suspense, gli aspetti sociali, le ricadute dal punto di vista dell'organizzazione della società. Io mi fermo solamente a una pura osservazione dell'ambiente che mi circonda, osservazione che nasce da un quotidiano attraversare la città, attraverso i mezzi pubblici, attraverso delle belle camminate a piedi lungo le strade, lungo i percorsi principali di una città come quella di Roma. Ma osservazione corroborata e affiancata alla mia osservazione di coincidenze, di fenomeni analoghi, di colpi d'occhio simili in altre città italiane. Mi sono accorto che esiste una sorta di organizzazione che non saprei ben definire come, dove, non saprei dare dei margini, dei limiti, delle definizioni più precise, che ha una sorta di mentalità molto incline a creare dei format spettacolari mirati a costringere, avviare, coinvolgere delle persone nell'attività di mendicanti. Mi sono reso conto che tra le tantissime persone che vivono lungo le strade delle nostre città, chiedendo l'elemosina, perlomeno con vari espedienti, cercando di catturare la commozione, l'attenzione dei passanti, esistono delle formazioni ripetute, delle organizzazioni di spettacolarizzazione di atteggiamenti o di concretizzazione di situazioni che coincidono singolarmente in tantissime altre città d'Italia. Vedo dei, non saprei definirli se mendicanti, giocolieri, perfetti interpreti di un ruolo, che fanno esattamente la stessa cosa in tutte le città d'Italia che mi è capitato di attraversare, come se ci fosse una mente, come se ci fosse un grande organizzatore, come se ci fosse una sorta di grande produttore del format dei mendicanti. E questa mattina ho voluto riassumere e descrivere quelle che sono, secondo me, le forme principali, come se appartenessero a dei generi letterari o da generi spettacolari. Sono persone che vediamo lungo la strada, che vediamo chiedere l'elemosina, vediamo semplicemente fare una sorta di rappresentazione performativa di uno stato d'essere, di uno stato d'animo, ma che in sé ha una profonda fantasia, una creatività che sembra impossibile che queste persone appartengano comunque a un pensiero casuale. Quello che mi piacerebbe capire questa mattina, e vi pregherei, se avete degli elementi, di aiutarmi, parto totalmente sprovvisto, racconto soltanto quella che è la mia esperienza visionaria, cioè di avere visto delle cose, è darmi delle indicazioni su chi, secondo voi, quale organizzazione e quale mente ha questa capacità di organizzare dei format per mendicanti. 800240024. Andiamo alla prima persona. Finta vecchia nera rattrappita tremolante. Per realizzare questo format occorre una palandrana nera, un foulard nero, un bastone con manico segato per una lunghezza di circa 30 cm, un bicchierino di cartone con dentro qualche centesimo, un santino incelofanato per proteggerlo da eventuale pioggia. Per realizzarlo occorre una notevole elasticità di giunture. Per dare l'illusione del rattrappimento serve che il figurante, di solito è un ragazzo giovane, sia quasi un contorsionista. La vecchia rattrappita riesce a stare nella posizione fetale inginocchiata anche un'ora di seguito. Si appoggia al troncone di bastone e simula un tremore diffuso e continuo di tutte le membra. Il volto e la testa sono completamente coperti con il foulard e alle mani mette spesso dei guanti sempre neri. Quando non ce la fa più, si guarda intorno, si alza e si allontana a passo svelto, dopo aver messo tutti gli accessori nello zainetto ultramoderno che porta sulle spalle. Ecco, la prima volta che io vidi una vecchia nera rattrappita e tremolante, ne fui profondamente colpito. Dico, guarda questa povera donna, com'è ridotta, com'è contorta e massacrata dall'artrite. L'immaginavo proveniente da qualche paese islamico limitrofo, erano i periodi che c'era appena stata la guerra nella ex Jugoslavia, la immaginavo una profuga, la immaginavo ferita nell'animo oltre che nel corpo. Era una sorta di mucchietto di stracci rattrappito ai piedi di una scalinata, la vidi per una volta ai piedi del Campidoglio. Si reggeva su questo piccolo bastoncino, tremando tutta, una sorta di scossone terrificante del suo corpo. Non si riusciva a vedere il volto perché aveva questo foulard che copriva tutta la faccia, lasciando solo delle fessure degli occhi. Ma era talmente contorta e rintorcinata in se stessa che mi fece un'enorme e struggente pena. Un mucchio d'ossa racchiuso in uno straccio nero che tremolava in mezzo ai piedi dei passanti, che sembravano totalmente indifferenti. Lasciai la mia elemosina, la osservai per un po', anzi la filmai, e sul mio profilo di Facebook questa mattina c'è il filmato che allora consideravo come una sorta di icona della sofferenza. Mi piacque e me lo tenni per lungo tempo. Poi, quando capii cosa c'era dietro, lo musicai con una musichetta di Simpson e lo misi per far capire che in realtà avevo colto un immaginifico format da mendicante. Perché mi accadde una volta che ne vidi quattro di queste. Ognuna ha una strada di un quadrivio e mi sembrava strano che quattro persone nello stesso luogo fisico avessero la stessa deformazione, lo stesso delirium tremens, lo stesso abito, lo stesso bastoncino, lo stesso zainetto che notai anche di marca sulle spalle. Stette a lungo osservare, alla fine mi resi conto che dopo circa tre quarti d'ora una di queste vecchie si alzò, si tolse il vestito, era un ragazzo, un ragazzetto, probabilmente con delle doti di contorsionista e di capacità di simulare questo tremito costante, mise nello zainetto il mucchio di stracci e si avviò tranquillo con passo spedito verso la metropolitana. Quindi capì che qualcuno aveva pensato, ma aveva pensato con una mentalità e con un'attitudine tipicamente teatrale, perché se sembrava quasi una sorta di rappresentazione di body art, qualcosa che ha a che fare con la possibilità di mostrare attraverso una sintesi estrema tutto ciò che può attraversare la confusione di etnie, la confusione di visioni della vita, le ferite della guerra, l'incomprensione, l'incompatibilità con un corpo fallato, con un corpo anziano, con un corpo non più efficiente, attraverso questa sorta di verticalizzazione necessaria della città. Sembrano tutti alti, tutti svettanti, tutti indaffarati, tutti dinamici insieme a questo avanzo arcaico di umanità che si agitava per terra. Beh, e invece non era frutto di miseria, non era frutto di emarginazione. Probabilmente il ragazzo che stava dentro quei panni non è che fosse un ragazzo particolarmente fortunato, perché a sua volta immagino, penso, suppongo che faccia parte di un racket che prende, costruisce, immagina e sparpaglia in giro per l'Italia queste vecchie tremolanti. Ma quello che a me piacerebbe mi piacerebbe immaginare chi è la mente che pensa dietro tutto questo meccanismo l'idea del format, il format da mendicante. Ragazza madre indigente. Per realizzare questo format occorre un lattante vero da tenere imbragato addosso, un bicchiere di carta e dei tranquillanti. Il tranquillante serve per poter godere di libertà d'azione e a non essere disturbati per ore. È necessario inoltre imparare a memoria la formula di richiesta, che è sempre la stessa in ogni città d'Italia. Buongiorno, signori. Scusate per il disturbo. Sono una ragazza povera con un bambino piccolo. Aiutatemi, vi prego, per favore, con magari 5 centesimi per comprare latte e panolini. Dio vi benedica, la vostra famiglia e i vostri bambini. Auguri buona fortuna, signori, e buona giornata a tutti. La formula è calibrata per permettere di ripetere un rapido passaggio per almeno 2 vagoni di metropolitana tra una stazione e l'altra. Adesso vi svelerò qualche segreto rispetto alla formazione di questo reperto di descrizione del format della ragazza madre con lattante. Riconoscerete la frase, il modo di pronunciare la frase, la pronuncia che deve avere un carattere esotico, la sintesi della frase, il senso profondo che c'è all'interno della frase chiede soltanto pochi centesimi, non chiede un consistente elemosina, soltanto pochi centesimi per l'acquisto necessario di latte e pannolini per quella povera creatura che ha il collo, che sono dei bambini sicuramente sedati, perché avendo avuto dei figli trovo altamente improbabile che un lattante se ne possa stare per ore lì con quella aria totalmente imbambolata, con gli occhietti chiusi e immobilizzato, quindi probabilmente li imbottiscono di Rolpin o di qualcosa di simile per farli star buoni. A me è capitato proprio pochi giorni fa all'uscita della metropolitana vederne quattro di ragazze madri con lattanti che andavano felici, tranquille e contenti con questi bambolotti umani al collo. Spesso sindaci, amministratori comunali fanno ordinanze, fanno proclami dicendo dobbiamo interrompere questa catena di sfruttamento dei bambini, ma continuiamo a vedere in tutte le città italiane delle ragazze con dei bambini al collo, creature, esseri umani sedati, tenuti lì come fossero dei bambolotti umani che servono ad aumentare la forza di questo format per animazione metropolitana. Ripeto, questa mattina l'aspetto sociale, seppur struggente, seppur lancinante, seppur importante, non lo voglio toccare. Non mi interessa capire il perché, il per come, il per quando, il perché non intervengono, il perché accade questo. Mi interessa la costruzione teatrale del format. Avete sentito la frase avete riconosciuta, chiunque prende una metropolitana la sente varie volte al giorno, in qualunque parte d'Italia. Beh, non l'ha detta una di queste ragazze. Un ragazzo molto fantasioso l'ha messa su YouTube. Giorni fa abbiamo trovato su YouTube un ragazzo che, bravissimo, ha riprodotto esattamente la formula e l'ha detta su YouTube. Noi l'abbiamo ricostruita mettendo sotto un rumore di metropolitana. Abbiamo artificialmente ricostruito ciò che in realtà è la rappresentazione artificiale della indigenza, della maternità macerata, una sorta, poi pensate, sotto Natale, vedere queste cose, viene in mente di vedere una sorta di bambinello con la sua mamma nelle intemperie. Esiste una perfida, se posso dire, cinica maniera di costruire perfettamente ciò che colpisce a fondo. Guardate, non è indifferente. Vorrei capire chi è la grande mente che ha costruito questo format e lo ha reso e lo ha spalmato in tutta Italia. Perché la stessa frase probabilmente è stata scritta da qualche parte. Probabilmente queste ragazze la imparano a memoria, ma siano a Milano, a Bergamo, a Catania, a Canicattì, a Perugia, a Milano, a Roma, ovunque, dicono sempre esattamente la stessa cosa. Con la stessa finta inflessione esotica o dialettale. Sempre con lo stesso tempo calibrato e perfetta, la frase è sufficiente per entrare dalla metropolitana, appoggiarsi al paletto da lap dance metropolitana, dire la frase velocemente, fare velocemente con il piattino un giro di vagone, uscire ed entrare nella metropolitana che viene nel senso opposto. 800240024. Il cappottino scalzo. Per realizzare questo format occorre lasciarsi crescere una barba incolta, capelli ugualmente lunghi e disordinati. I piedi devono essere particolarmente lividi, inzaccherati di fango. Per quanto riguarda l'abbigliamento, occorre unicamente un cappotto lacero e abbondante, ma non troppo lungo, per accentuare il contrasto della fuoriuscita delle gambe nude. Il cappottino scalzo lavora ai semafori. La sua apoteosi è i giorni di pioggia e maltempo. Si aggira in stato confusionale tra le automobili in attesa del verde, stringendosi addosso quel cappotto sotto al quale fa intuire di essere quasi nudo. L'effetto dei piedi nudi nelle pozzanghere e dei lunghi capelli bagnati sul viso barbuto ricostruisce perfettamente l'icona dell'Ecce Homo. Io di cappottino scalzo me ne sono accorto da un mese circa. Ne avevo uno sotto casa mia. Mi sembrava singolare, un signore completamente nudo, a piedi nudi, soltanto coperto in un cappotto, i giorni di maggior pioggia e intemperie, passeggiava come se fosse un folle, un ubriaco, una sorta di personaggio surreale, sotto l'acqua, al quadrivio di un semaforo, passando attraverso le macchine, tenendosi stretto con questo cappottino, questi piedi lividi, che non avevano più nulla ormai di carnale, ricoperti da croste, ricoperti da fango, dall'acqua che passava. Stringeva veramente il cuore questo cappottino. Questi capelli lunghi, questa barba, poi intrisa di pioggia, intrisa di umidità, gli colava lungo la faccia, sembrava veramente un Ecce Homo, devo dire. Era veramente struggente, pensavo un povero paziente psichiatrico, probabilmente vagava per la città, non aveva altro che questo cappotto e via dicendo. Però dopo mi è capitato di vederne un altro da un'altra parte della stessa città. Mi è capitato di vederlo in un'altra città. Mi è capitato di vederne anche questa volta quattro, alle quattro lati di quattro strade. Quindi ho capito che era un format. Poi una pietosa signora che abita nel mio stesso palazzo, colpita da un cappottino fradicio, aveva portato un paio di scarpe in ottime condizioni e l'aveva data questo cappottino. Lui ha ringraziato, lui per lì non parlano mai, è muto, ha ringraziato facendo la testa, ma il giorno dopo era nello stesso posto, sempre a piedi nudi. E quindi ho capito che anche il cappottino scalzo faccia parte di uno dei tanti format. 800240024, vediamo chi può aiutarmi questa mattina a trovare la grande mente, il creatore di questi format. Sentiamo Davide. Davide, buongiorno. Buongiorno dottore, la ascolto sempre e le faccio i complimenti per la trasmissione. Può aiutarmi questa mattina? Io ho semplicemente trascritto alcune mie impressioni, le vedo tutti i giorni, non potevo fare a meno di osservare che esistono delle costanti nella ricostruzione di una sorta di format per la pietà metropolitana. Lei ha qualche elemento in più? Sì, io qualche elemento in più glielo so dare. Io, come si sentirà dall'accento, sono siciliano. Esattamente, sono un medico e lavoro in provincia di Siracusa. Per un determinato periodo di tempo ho lavorato in una città, tra l'altro anche famosa per i beni artistici, che è Noto. Certo, ma è patrimonio dell'UNESCO. Pronto, mi sente? Sì, sì, l'ascolto bene, sì. Ho lavorato in questa città. Noto è infestata da queste persone che dialettalmente vengono chiamati camminanti, che in realtà sono almeno parte della mente che organizza queste situazioni, questi mendicanti che lei ha descritto benissimo. Questa ricostruzione che lei ha fatto è stata attentissima, e sono studiati e creati in questa zona della provincia di Siracusa, almeno una buona parte, non credo tutti. Quindi esiste una sorta, diciamo, di grande casa di produzione di fiction che lei la individua nella città di Noto. Sì, io le posso dire con discreta disinvoltura che questa gente ha case incredibili, di un lusso pazzesco. Esistono miti addirittura di carabinieri che ti raccontano, col mestiere che faccio, essendo un medico, ho rapporti anche con forze dell'ordine, esistono carabinieri che raccontano che nelle incursioni in queste case, che ribadisco che sono di un lusso pazzesco, hanno trovato libretti al portatore con centinaia di migliaia di euro. È chiaro, avranno probabilmente un'organizzazione che fa impallidire le grandi case di produzione, cioè la casa che fa il Grande Fratello, fa ridere in confronto. Lo credo seriamente. E questa gente ha un modo di vivere che è pazzesco, nel senso di che vivono apparentemente in una povertà esasperata, e poi in realtà hanno una ricchezza mostruosa. E quindi secondo te qui ci sono delle menti capaci di costruire questo modello? Che sono sfiorano la perfezione nella costruzione dei vari elementi che portano poi alla compassione o alla è un condensato di stimoli sensoriali, emotivi, riferiti alle cronache recenti, riferite alla storia profonda, che sono perfetti nella loro costruzione. Sì, non pensi che sono ignoranti, assolutamente. Quelli che sono i capi di questa organizzazione, oltre a essere ricchissimi, girano con dei BMW incredibili, ma hanno anche un discreto ceto culturale. Io sono convinto che sia così. Lo creano questo modo di fare, lo creano spiegandolo, alle volte maltrattando i bambini per farli diventare deformi. Io racconto sempre, così come storia agli amici la sera a cena, di questo bambino che veniva appositamente usato per essere investito dalle macchine. Mi spiego meglio, cioè, io ho visto troppo frequentemente questo bambino in pronto soccorso. Questo bambino non so se veniva proprio spinto per essere investito da una macchina o se si simulava l'investimento, non l'ho mai capita bene la cosa. Voglio sperare si simulasse, perché alla terza botta del bambino rimaneva più poco. Quindi comunque mi sembra che quello che lei dice è un buon punto di partenza. Lei, perlomeno dalla sua esperienza di medico, una particolare situazione, sa che possono esistere comunque dei centri di immaginazione di questi format. La ringrazio, dottore, solo velocemente. Alessandro, che ha una variante della ragazza madre, che vuole descriverci. Buongiorno. Prego. Allora, mi è capitato più volte, nella città di Bologna precisamente, di vedere, penso io ho etichettato come una formazione della ragazza madre, cioè... È uno spin-off rispetto al format che ho individuato probabilmente, una variazione. No, penso proprio, era il momento di formazione in cui la vecchia generazione lasciava spazio alla nuova, cioè era, penso, il capobanda, comunque questa struttura, penso, matriarcale, con questo donnone, con questo seno enorme, senza reggiseno ovviamente, mollato così, sotto il maglione, con il fagotto attaccato al collo, che presumo ci fosse il bambino dentro, assolutamente non indigente dall'aspetto, però con questi capelli neri, uno spillone dorato in testa, e andava in giro inscenando la solita nenia, no? E intorno a sé aveva queste ragazzette e era più interessata a redarguirle nella loro lingua, come se gli facesse vedere: dovete fare così, non capite niente, vedete io che sono un professionista, una professionista, come si fa? Cioè, il tono era questo, almeno io l'ho interpretato così, perché in sé per sé non faceva una lira questo donnone corpulento, tutto sembrava tranne che... Forse probabilmente era una sorta di stage di apprendistato in cui la matriarca portava in giro le nuove leve e le addestrava quello che era il format che avrebbe voluto interpretare nelle strade, immagino sia qualcosa del genere. La ringrazio. Melog 2.0. I disorientati folk. Questo format è basato sull'accentuazione del senso di spaesamento del personaggio sradicato dal proprio arcaico Eden e annichilito dalla disperazione di essere stato catapultato per bisogno nello stile mondo moderno. La coppia base è composta da signora corpulenta in abito tradizionale. La citazione è ottenuta facendo indossare scarpe rosse di fabbricazione cinese, calzettoni maschili a righe colorate comuni da bancarella, ampia gonna e gilet etnico, foulard vagamente folk. La versione maschile rappresenta il vecchio saggio delle montagne e si ispira al nonno di Heidi. Ha la barba bianca da profeta, bastone nodoso, abito di fustagno e parla unicamente incomprensibile calamburgitano. 800240024, stiamo analizzando i format da strada, stiamo cercando di capire quale sia la mente geniale che con una intuizione da grande uomo di spettacolo è riuscita ad imporre a tutte le latitudini del nostro paese, almeno in Italia così accade, dei luoghi comuni, delle rappresentazioni uniche che dovrebbero sintetizzare povertà, indigenza, trasmigrazioni, paesi lontani, bisogni, sensi profondi legati alla religione, nella famiglia, i propri sensi di colpa più profondi. In particolare i disorientati folk, li vedevo molto la mattina quando arrivavo in trasmissione presto, all'alba, da Piazza del Popolo, lasciano un pulmino, ne escono almeno 7-8 di disorientati folk, sono tutti uguali, hanno le stesse calze a strisce che vendono in quei bei negozi per uomini che porto anche io, oggi vanno molto di moda, loro le mettono perché in qualche maniera dovrebbero ricostruire nell'immaginario comune qualcosa che ha a che fare con fantasmagorie che vengono da paesi dell'est. Hanno tutte le stesse scarpe rosse col tacco, identiche a quelle che si vedono comunque nelle bancarelle, nelle vetrine. Sono tutte vestite uguali, la mattina scemano tutte insieme, escono da Piazza del Popolo e poi si diramano via nelle varie strade e si vedono staccate. Invece il vecchio saggio è una figura interessante, ne ho visti tanti a Milano, ma ne vedo anche parecchi qua a Roma. Improvvisamente ti appare lungo la strada una figura che sembra venire da un altro mondo, da un altro pianeta, da un'altra dimensione, da un altro tempo, una figura quasi romanzesca, questa lunga barba da profeta, con questo bastone, questo vestito strano, e sembra che, non so, una macchina del tempo l'abbia catapultato nel nostro marciapiede. Se uno rivolge lui la parola non parlerà nessuna lingua concepibile e percepibile, anche il suo linguaggio è un linguaggio alieno. Devo registrare una reazione che mi aspettavo. La dico, così almeno mi tolgo il peso. Mi scrive Simone su Facebook: attraverso una via mancina è riuscito a far emergere l'intolleranza logo comunale dell'italiano medio. Se avesse trattato l'argomento direttamente, chiunque sarebbe chiamato indietro con il terrore di essere tacciato di xenofobia. Geniale e raffinato. Beh, l'intolleranza logo comunale, il logo comune dell'intolleranza nei confronti di stranieri, di diverse vicende, non mi impedisce di osservare quello che osservo, non mi impedisce di fare delle analisi estetiche del mondo che mi circonda, non mi impedisce di tracciare dei segni, delle icone della contemporaneità che mi colpiscono. Remus, buongiorno. Buongiorno, sono un perugino romeno. Quindi ci può aiutare a decifrare questi format da strada? Da, più o meno, diciamo. Io sono cresciuto con questi personaggi praticamente accanto. Sono il piccolo segreto, diciamo, che sta in loro organizzazione tipo tribale, e loro modus vivendi, questo, dunque loro così vivono, così dalla nascita sono imparati a reagire in questo modo, a chiedere, a provocare schifo da una parte, paura dall'altra. Questa voglia di dargli elemosina al fine. Quindi, secondo lei, io ho fatto, ho analizzato dei modelli che ho visto, che ho osservato, semplicemente descritto quello che vedevo. Secondo lei, com'è possibile che in tantissime città, in tantissimi luoghi diversi, vediamo la stessa persona, come se fossero costruiti in serie? Questa ci porta a pensare che c'è una radice comune in tutto questo comportamento, perché per esempio questi si imparano a casa, da piccoli, perché loro rifiutano ogni integrazione. Non è che noi abbiamo fatto dei sforzi in Romania, sia a livello personale. Quindi sono di provenienza rumena la maggior parte di queste persone? No, un attimo. Dunque, i zingari sono un popolo che storicamente è stato dimostrato che sono venuti dal mezzo di Asia, intorno all'India. Sono venuti in Europa come schiavi dei popoli migratori. Sì, ma io la parola zingaro nemmeno l'ho pronunciata all'inizio. Ho osservato dei personaggi, non mi sono nemmeno domandato da dove venissero. La domanda che mi faccio è diversa. Quale sia il meccanismo per cui la creazione di un format teatrale di rappresentazione di un quacervo di miserie, di disperazioni, sia poi spalmato e riprodotto in tutte le città italiane? Non mi interessa dove vengano, chi siano. Voglio sembrare cinico, ma non mi interessa nemmeno capire se ci sia dietro un'organizzazione che lucra su di loro. È l'aspetto estetico che a me interessa. Quali sono i punti di riferimento e dove nascono, secondo lei, elementi che hanno inventato la vecchia rattrappita, la ragazza che dice la formula nell'autobus? Chi è che l'ha pensato per primo, secondo lei? Io ho detto, queste sono cose che loro li trasmettono da una generazione in generazione. Dunque, queste cose si imparano a casa, avendo di sicuro una radice comune in tempo. La ringrazio, passiamo adesso, abbiamo al telefono Antonio Di Maggio, che è dirigente comandante dell'ottavo gruppo della Polizia Municipale di Roma. Comandante Di Maggio, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Sempre fermandoci a quella che è la mia curiosità, perché se entrassimo nell'aspetto sociale, di ordine pubblico, andremo verso un'altra direzione. Lei trova che le osservazioni che ho fatto questa mattina corrispondano in realtà a personaggi che ogni giorno vediamo per le strade della nostra città? E si è mai domandato chi ci sia dietro, chi abbia pensato queste idee, che hanno anche un discreto successo? Sì, io ritengo che a parte, come dire, la rappresentazione estetica è sicuramente, come dire, anche direi letteraria, insomma, al massimo livello, mi sembra una cosa abbastanza interessante anche sotto un profilo così narrativo. Ritengo che ci sia comunque, dietro queste vicende, ci siano comunque delle attività connesse in parte alle tradizioni di questi popoli, che è vero sono zingari, diciamo così, ma non sono anche non zingari, sono persone povere che provengono prevalentemente dall'area della Romania e della Bulgaria. E poi sono indotti ovviamente a mendicare in conseguenza delle condizioni di povertà. Ma il fatto, per esempio, comandante, che tutte le ragazze dentro la metropolitana in tutta Italia dicano la stessa frase, nemmeno una virgola viene cambiata. Ma no, lì ci sono poi delle attività Parlo ovviamente delle nostre attività operative. Noi abbiamo accertato, penso, primi in Italia circa 10 anni fa, quando io ero dirigente del terzo gruppo della Polizia Municipale di Roma, arrestammo una serie di personaggi che erano collegati con altrettanti soggetti in Romania che gestivano appunto la tratta delle elemosine, quindi persone sia minorenni che maggiorenni che venivano indotte ad elemosinare qui a Roma e poi tornavano in Romania con questo piccolo gruzzolo. Ovviamente dietro c'era anche la tangente per loro, motivo per cui furono arrestati dopo circa 2 anni di intercettazione telefonica. Ecco, venivamo a capo di questa situazione, di questa organizzazione, che di fatto era un'organizzazione criminale, perché poi imponeva queste condotte attraverso la violenza e le minacce. Ecco, quindi diciamo una condotta imposta, non voglio sembrare così ingenuo da pensare che siano dei piacevoli teatranti che recitano tutti lo stesso copione. L'organizzazione li prende, ha già il modello a cui loro devono adeguarsi, che evidentemente è un modello che ha fatto i suoi test, è la maniera più efficace per colpire l'emotività del passante, probabilmente. Anche la sensibilità di ciascuno di noi, perché vedere bambini anche mendicare, piccoli o addirittura ecco persone inferme, no? Anche a Roma abbiamo questo fenomeno delle persone che non hanno gambe, che sono, insomma, hanno dei problemi fisici difficilissimi, che sono soprattutto nell'area del centro storico, che vanno a mendicare e vengono accompagnati da furgoni, certamente induce alla pietà, induce alla così. Però lei ci ricorda che, ecco, che c'è un'organizzazione criminale dietro, che questo, partendo dall'aspetto puramente estetico, poi risalendo, si capisce una grande organizzazione che scientificamente, siccome deve lucrare su queste persone in maniera cinica, in maniera criminale, ha trovato la maniera migliore per farle agire, interagire con la società. Grazie comandante. Melog 2.0. I mutilati. Per realizzare questo format occorre essere atrocemente mutilati o avere deformazioni evidenti degli arti. La tecnica di attenzionamento consiste nel fare di tutto per accentuare il punctum del colpo d'occhio del passante sulla propria menomazione. Quindi si avrà la massima cura nell'esposizione e valorizzazione del moncherino o nella deambulazione faticosa. Per questo sono spesso usati piccoli carretti, grucce molto vistose, supporti e evidenziatori meccanici. Anche gli abiti da lavoro devono essere ritagliati e fessurati per la perfetta visione della deformità fisica. 80024, stiamo enumerando quelli che sono i format per mendicanti. Alcuni atroci, come questo dei mutilati, lo ha detto il comandante dei vigili, un dirigente della Polizia Municipale di Roma che ci ha chiamato prima, ha detto che in effetti fa parte di un'organizzazione criminosa che loro conoscono, che con dei furgoncini porta questi mutilati nelle zone operative del centro storico. Un paio di anni fa un collega del Corriere della Sera, mi sembra di ricordare, seguì tutto il percorso di alcuni orfanatrofi in alcuni paesi dell'est, cui venivano presi, prelevati questi ragazzi con delle deformità fisiche, con delle mutilazioni, venivano portati e avviati alla strada perché potessero, come in un romanzo d'appendice ottocentesco, viene in mente L'uomo che ride, potessero con la loro deformazione toccare il cuore dei passanti. Nicola, buongiorno. Buongiorno, dottore. Allora, diciamo che nel caso di specie che lei sta trattando del format, ci riferiamo a quelle che sono, diciamo, le preparazioni di un'organizzazione criminale che alla stessa stregua di imprese quotate anche in borsa devono fare bilancio. Allora questa è una delle forme di approvvigionamento di capitali che poi vengono investiti in altre attività illecite e lecite, quindi anche nel riciclaggio di denaro sporco, eccetera. Ovviamente loro lo vedo dalla scheda. Nicola, lei lavora presso la squadra mobile di Napoli, quindi ha un'esperienza professionale su quello che sta dicendo. Abbastanza lunga, non solo su questo, però ovviamente essendo un'organizzazione criminale la quale, diciamo, si va ad incuneare in diversi settori della criminalità, perché l'accattonaggio è quello anche fatto vicino ai semafori con ragazzini che devono pulire i vetri o le luci, insomma, delle macchine. per fare cassa, e ovviamente anche in quel caso vengono preparati a recuperare moneta, mentre ovviamente nell'accattonaggio ci sono tutte quelle figure, diciamo così, pirandelliane, che identificano la persona, che poi ovviamente non la esprimono, così come diceva quel signore, non ricordo, del dottore siciliano, che l'opulenza poi delle case di chi degli organizzatori, eccetera, e quella è una parte diciamo di persone, però poi ci sono gli zingari, che come diceva anche l'altro ascoltatore rumeno, sono così perché comunque nella loro tradizione attingono in una tradizione, certo, crescono e fanno questo. Poi ripeto, il format di cui parla lei è quello fatto e ideato da soggetti criminali, e i soggetti criminali mettono come dire, in campo quella che nella psicologia si dice ad gradeor, in modo integrato, cioè nel senso un'aggressione non violenta, integrata, che riesce a sensibilizzare gli animi dei soggetti che nel loro immaginario sanno che la persona mutilata, il bambino, il neonato, eccetera, sensibilizzano, ammorbidiscono quelli che sono i sentimenti. Se diciamo che sono messaggi quasi subliminali, certo, dell'indifferenza, certo, del nostro quotidiano, comunque ne siamo colpiti. La vecchia tremolante, che è il primo episodio, beh, è una costruzione fantastica. Vedere questo mucchietto semovente per terra che struscia quasi come fosse una sorta di biscia in mezzo ai piedi delle persone, ma non può non colpire. Devo dire, lì c'è veramente una costruzione fantastica. Sentiamo un successivo ed ultimo dei format che, almeno perlomeno, io ho analizzato. L'umile genuflesso. Questo format si può realizzare secondo due varianti. Nella prima, il questuante sta muto e immobile, inginocchiato con il busto eretto e le mani congiunte in preghiera, mantenendo lo sguardo fisso davanti a sé. Nella seconda versione, il soggetto è totalmente prono, chinato in avanti con la fronte che arriva a toccare il marciapiede. Questa variante è tanto più efficace quanto più il passante rischia di schiacciarne la testa con il piede. È usato anche il format misto, con alternanza delle due versioni da un'ora all'altra. Luca, buongiorno. Anche lei ha assistito alla creazione di un format che magari ancora io non ho osservato. Pronto, sono io? Sì, Luca. Ah, buongiorno. No, io ho assistito a un format, il cosiddetto, l'estate scorsa, a distanza di 10 giorni l'un dall'altro. Mi sembrava lo stesso personaggio, però non ne sono sicuro che fosse lo stesso, che in due zone di vacanza qui nel Veneto aveva un disegno, un'opera d'arte, la rappresentazione di un'opera d'arte fatta con i gessetti, messo in zone strategiche, che all'opera d'arte mancava praticamente, non so, qualche ora di lavoro per essere terminata. E con dei gessetti lui rimaneva lì delle ore e faceva finta, e questo me ne sono accorto io perché sono rimasto lì anche un'ora e mezza a vedere quanto andava avanti col lavoro, e con i gessetti faceva finta di portare avanti il lavoro. Una persona sui 30 anni, eterno studente. Quindi diciamo il finto madonnaro, potremmo chiamarla questa sua nuova versione, che esatto. c'ha un prestampato, diciamo, come fosse un cibo precotto, come se fosse un abito preconfezionato, e finge di lavorare sopra come un artigiano. Grazie. Mario, buongiorno. Mario. Sì, buongiorno, sono Mario da Gallarate. Descriva il suo format, che ha visto? Praticamente io faccio l'operatore ecologico e inizio presto il mattino a lavorare. Mi trovavo puntualmente a pulire una strada e trovavo sempre, tutti i giorni, un signore che arrivava in Mercedes, che era uno zingaro praticamente, arrivava, si trasformava completamente. E cosa diventava? Diventava tutti con indumenti stracci, indumenti insomma che non dava della persona ricca, ecco, con un cagnolino, questo quasi... si portava al centro di Gallarate con un cagnolino, una ciotolina di latte, e si metteva lì a a mendicare praticamente, quindi era una raccolta di sordi e senza lavoro. Sì, ecco, non avevo considerato, ma è variegato, dal punca bestia, che sono quei ragazzi o cani puzzolenti appoggiati ai bordi a marciapiedi, al cagnolino tenero, la scatolata di cucciolotti è anche un grande elemento che induce comunque alla tenerezza. Si vede un mendicante che sarà uno scatolione pieno di cucciolini e tutti danno i soldi, come fossero i bambini, anche i cucciolini istigano a tenerezza. Giovanni, chiudiamo con Giovanni, buongiorno. Buongiorno, io ho due format, uno è l'internazionale del mutilato, ero a Hong Kong qualche anno fa per lavoro e ho visto una quantità impressionante di mutilati. A Hong Kong? A Hong Kong, che devono l'emosina e mi spiegavano un locale che c'è un'organizzazione che gira per tutta la Cina a raccogliere questa gente malformata per poi portarli nelle città ricche a chiedere l'emosina. E poi ho assistito a un forum alla trasformazione quando ero studente a Catania, un mendicante con un braccio terribile, sanguinolento, tutto deformato, che poi un giorno ho visto andare in un bar dove siamo vicino dove prendevamo la corriera a depositare una quantità incredibile di monete frutto della giornata di lavoro, e il barista mi spiegava che lui la mattina scopriva questo braccio, se lo graffiava fino a farlo sanguinare e poi girava per la città con questo braccio. Sì, era anche masochista, esistono dei trucchi perfetti che imitano il sangue in maniera straordinaria. Grazie a tutti, grazie ai format dei mendicanti che ci hanno permesso questa mattina di avere fulgide ispirazioni. Ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.